Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24. È la nostra prima puntata domenicale che si va ad aggiungere appunto da questa settimana alla abituale ormai puntata del sabato. Magazine 24, come sapete, è la rubrica in cui esaminiamo i settimanali, i periodici italiani e stranieri, anche mensili, le varie pubblicazioni che possono in qualche modo interessarci, alla ricerca di notizie magari meno analizzate sui quotidiani, oppure di notizie meno viste sui quotidiani, spunti insomma per trovare qualcosa da leggere, qualcosa di cui parlare, qualcosa su cui riflettere. Ad esempio ha fatto molto discutere, e ne avrete sicuramente sentito non solo sui quotidiani ma anche in televisione, alla radio, della la proposta di intervenire su Google. La tassa su Google è stata un'idea francese, ma proprio un settimanale francese, Nouvel Observateur, questa settimana, la settimana che si è appena conclusa, ha provato a riassumere tutte le iniziative che nei vari paesi si stanno in qualche modo infittendo proprio nei confronti di Google. Dice: il movimento di rivolta contro una società che ormai è divenuta uno dei pesi massimi di Wall Street, della borsa americana, ha preso forme diverse secondo i paesi. Così riferisce Claude Sulla sul Nouvel Observateur di questa settimana. In Gran Bretagna o negli Stati Uniti c'è una offensiva per costringere Google in qualche modo a non pubblicare le notizie gratuitamente, quindi al passaggio a pagamento. L'offensiva naturalmente guidata da Rupert Murdoch, e quindi con il divieto di utilizzare poi i contenuti editoriali delle altre testate e metterli gratuitamente a disposizione di chi naviga in internet. In Italia, perché il Claude Sulla si occupa anche dell'Italia, ci sono gli editori che stanno portando avanti proprio contro Google una causa per abuso di posizione dominante. E in Francia cosa è successo? Che una commissione che era stata istituita proprio dal presidente Sarkozy, guidata da Zelnick, quindi la commissione Zelnick, ha cercato dei rimedi per ridare fiato all'industria culturale ed è arrivata a una conclusione particolare, quella di imporre una tassa su Google in modo da poter con il ricavato di questa tassa finanziare la diffusione di opere di contenuto culturale su internet. Naturalmente in questo contenuto culturale i francesi, la commissione intende un po' tutto, cioè non solo libri o questioni di cultura alta, ma anche la diffusione di musica, la diffusione di contenuti digitali che comunque abbiano necessità in qualche modo di essere conosciuti. Naturalmente c'è stata una prevedibile reazione negativa da parte di Google France, che ha spiegato che già paga regolarmente tutte le sue imposte, però come malignamente nota Sulla, paga sì tutte le sue imposte in Irlanda, perché è il paese dove Google Europa ha la sua sede e quindi in questo modo può beneficiare di una consistente riduzione delle imposte in Francia. Forse dietro quindi a questa proposta della Commissione c'è anche questa particolare configurazione fiscale e societaria che contraddistingue Google France. La risposta sul perché Google abbia preferito fare base in Irlanda è perché a Dublino ci sarebbe più facilità di trovare manodopera, personale in grado di parlare più lingue, cosa che se avete su un Nouvel Observateur sarà senz'altro vera, ma è certo molto attraente anche poter contare su un regime di prelievo fiscale che sta tra il 10 e il 15% contro il 33% che viene richiesto in Francia, ed è più o meno la percentuale, anzi è un po' più alta della percentuale che viene richiesta alle società in Italia. Quindi se poi si aggiunge, come appunto riferisce il Nouvel Observateur, che Google France riesce a catturare il 10% di tutte le risorse pubblicitarie dei grandi media francesi, beh, allora qui si capisce come mai la Commissione abbia trovato conveniente andare a proporre l'ipotesi di tassare Google France piuttosto che quella di qualche altra imposta, qualche altra tassazione per sostenere le attività di diffusione. È un altro degli infiltrati infiniti problemi che sorgono appunto dalla globalizzazione, dal fatto legittimo di andare a posizionare le società laddove il carico fiscale è più conveniente, ma che d'altra parte, potendo tutti noi ormai accedere tramite internet a tutti i contenuti in tutto il mondo, mette i governi in una notevole difficoltà, e anche gli editori e anche gli autori. Non ci sono però solo le difficoltà, qualche volta i computer possono contenere delle sorprese gradevoli. Ad esempio c'è su Panorama di questa settimana l'illustrazione di questo algoritmo che in pochi minuti riesce a prevedere se una canzone scalerà le classifiche oppure no. Ve lo segnalo adesso perché l'algoritmo è poi la base di tutte le ricerche che operano su Google, quindi il legame tra i due eventi è abbastanza stretto. Dice: questa formula magica cambierà la musica, il titolo dell'articolo di Gianni Poglio. Dice, spiega che appunto David Meredith, amministratore delegato del colosso americano Music Intelligence Solutions, ha questo software, questo programma che si chiama Apply It Song Science, e secondo lui è una cosa che cambierà completamente la musica. È un sistema di intelligenza artificiale che è in grado di prevedere se una canzone ha qualche, molte o nessuna possibilità di diventare un successo di massa. Non è un'invenzione usa e getta, c'è il lavoro di decine di scienziati e ricercatori. Come funziona? Viene spiegato poi in un box accanto all'articolo. Arriva un'email con l'analisi musicale del brano, poi c'è un secondo messaggio che spiega i criteri di valutazione e poi arriva il temuto giudizio. Hai scritto un hit oppure non funzionerà mai, il pezzo è buono ma bisogna cambiargli il look, bisogna distribuirlo solo su internet e non attraverso i negozi, bisogna suonarlo dal vivo e così via. Secondo il magazine americano Billboard, che è un'autorità in materia, si tratta della più grande invenzione in campo musicale dopo il CD. Applia, spiega questo stesso David Meredith, isola e analizza i singoli aspetti musicali che sono presenti in una canzone fatta e finita, quindi velocità del ritmo, linea melodica, brillantezza del suono, sequenza degli accordi, intonazione. A quel punto cosa fa? Fa un confronto con il database delle canzoni che hanno avuto più successo nella storia della musica o che hanno avuto una programmazione più insistente nelle radio. Questi parametri, questo sarebbe appunto diciamo il vero valore aggiunto dell'applicazione, vengono aggiornati di continuo, cioè se nasce un nuovo genere musicale e questo ha successo, tutto il sistema viene riparametrato, e questo, viene da notare a margine, dovrebbe impedire anche che poi uno cerchi di suonare sempre più o meno la stessa musica o di riprodurre una musica in qualche modo già sentita. Il verdetto viene garantito in pochi minuti dal sito, arriva l'autore del brano una risposta precisa e definitiva. Il brano è Applia, il sito scusate è applia.com, scritto Uplia con la Y e non la I normale, e i consigli sono del tipo: il brano è un potenziale hit però va rallentato, oppure questa canzone non soddisfa nessuno dei requisiti di un pezzo per il grande pubblico, quindi tieniti stretto il tuo posto di lavoro. All'inizio si spiega anche che le prime due valutazioni sono gratuite, poi il servizio invece diventa a pagamento. Si pagano $90 per far analizzare in questo modo 15 canzoni. Lo stesso Economist si era occupato di questa invenzione e parlava di una invenzione che cambierà per sempre il modo di scrivere la musica. In realtà però lo stesso Meredith precisa: voglio zittire i puristi, non danneggia la creatività, non stiamo riducendo l'arte a formula matematica, noi riveliamo in realtà al compositore solo se il suo brano ha i tratti del singolo di successo. Per essere chiari, ci sono gli artisti che non scrivono canzoni né facili né radiofoniche, eppure vendono milioni di album a pubblico musicalmente colto che non ama i ritornelli. E questa è la descrizione di questo algoritmo. Tra l'altro ci avverte sempre panorama in una di queste pagine dedicate a questo algoritmo per la musica di successo. A Londra stanno studiando un altro algoritmo, quello per il telefilm di successo, perché ci sono delle altre applicazioni di intelligenza artificiale che possono dare indicazioni certe sul potenziale commerciale di un'opera dell'ingegno, cioè se un telefilm potrà piacere o no. Ci sono tre professori dell'Università Royal Holloway di Londra, stanno studiando un algoritmo che valuti appunto la perfetta sceneggiatura dei telefilm. Attraverso cosa? Attraverso lo studio dei dialoghi. E poi c'è sempre un algoritmo alla base di una radio che organizza l'ascolto delle radio via web sulla base dei gusti musicali del singolo utente, in pratica una sorta di ricerca personalizzata, mirata di quello che si vuole sentire. Non sappiamo se ci siano anche algoritmi per le radio all news. In qualche modo queste prospettive, pur bellissime, sembrano un pochino banalizzare anche il tipo di lavoro che stiamo facendo. Speriamo che aspettino ancora qualche mese o qualche anno a inventarli. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di musica, l'algoritmo per i brani di successo. Beh, sicuramente non avevano l'algoritmo per sapere se i loro brani erano di successo o no, ma quelli che sono stati raccolti in una collana che proprio con il Sole 24 Ore presenterà nei prossimi giorni sono certamente dei brani che hanno avuto successo. Vi parlo di Lirica, la grande Lirica è una collana che comincerà dal 26, della settimana prossima, dal 26 di gennaio con il Sole 24 Ore, comprende opere del calibro della Traviata di Verdi, Carmen di Bizet, la Madama Butterfly di Puccini, la Ida ancora di Verdi, tanto per citare solo le prime uscite. In tutto saranno 20 uscite che proseguiranno sempre con il Sole 24 Ore, con una frequenza settimanale, quindi un'uscita alla settimana. Ogni uscita contiene un DVD e un CD per appunto apprezzare questo tipo di opere che, ripeto, forse non avranno avuto l'algoritmo di Applia, però hanno avuto sicuramente un successo. Sicuramente questi brani o parte di queste arie sono entrate nell'algoritmo che questi scienziati hanno messo a punto per trovare che cos'è che fa un brano di successo, da martedì con il Sole 24 Ore, la grande Lirica. In realtà, in tutta questa ricerca tecnologica, in questo affannarsi a trovare la formula perfetta per il successo commerciale, qualche volta succede, fortunatamente viene da dire, che basti un pochino di creatività. Ed è quello che è successo a un film che arriverà presto in Italia. Vi segnalo la cosa dal venerdì di Repubblica, ma anche altri periodici si stanno occupando di questo film. Il film si chiama Paranormal Activity, attività paranormale. Chissà perché il titolo non è stato tradotto, non si è sentito il bisogno di tradurlo. Ma sentite cosa ne spiega Repubblica. L'orrore casalingo diventa fenomeno mondiale con questo film. Perché? Perché questo film è stato girato in una settimana da un regista sconosciuto con un budget di $15,000, una camera a spalla e degli attori esordienti. Attualmente il film è arrivato a superare i 107 milioni di dollari di incassi negli USA. Arriva in Italia il 5 di febbraio. È considerato l'erede naturale di un altro film dell'orrore girato a basso costo che era Blair Witch Project. Era stato prodotto nel 99 e ci vollero all'epoca $60,000. Incassò, a fronte appunto di una spesa di $60,000, 260 milioni. Questo film è costato ancora meno, appunto $15,000, e con pochissimi attori sta già a 107 milioni, quindi c'è da pensare che possa superare il record di Blair Witch Project. La storia di una coppia che si trasferisce in una casa alla periferia di San Diego, in California. Presto si manifesta una misteriosa entità alla cui presenza i due giovani decidono di documentare montando alcune telecamere. E da lì poi c'è questo racconto particolarmente terrificante di quello che succede appunto nella stanza di notte. A scoprire questo film è stato uno che della materia si intende, cioè Steven Spielberg. Ne vide un DVD nel 2008 e si racconta, ammesso che non sia propaganda, che lo stesso Spielberg fece chiamare l'autore, il giovane israeliano Oren Peli, gli disse che aveva interrotto la visione a metà per la paura. L'idea del film, ha detto il regista, ha detto Peli, gli venne dopo essersi trasferito con la fidanzata in una casa così scricchiolante che l'aveva fatto pensare a delle presenze demoniache, che a lui però in qualche modo hanno portato, stanno portando molta fortuna, il tutto verrebbe da dire senza algoritmi, senza troppe ricerche del caso. Anche perché, e restiamo sul venerdì che avete trovato qualche giorno fa, nei giorni scorsi con Repubblica, gli input quotidiani al cervello oramai sono numerosissimi. In 30 anni si sono più che quadruplicati. Ogni giorno ci sono ben 34 gigabyte di informazione che raggiungono il cervello di un americano medio. Questa è stata la stima. Per memorizzare tutto quanto ci vorrebbe un quinto di disco rigido di computer portatile. La stima l'ha fatta il Centro delle Informazioni Globali dell'Università di San Diego, appunto, come la casa in cui è ambientato il film di cui parlavamo prima, nella sua edizione 2009 di un report che si chiama Quanta informazione. Rispetto al 1980 l'incremento delle informazioni che sono disponibili è stato del 350%, e quindi la quantità è cresciuta soprattutto per la grafica dei computer e per la TV ad alta definizione, come spiegano gli stessi curatori. Oramai il 55% dei dati che arrivano al nostro cervello in un giorno medio arriva dai videogiochi e il 35% arriva dalla TV. Considerando poi il tempo di fruizione dei singoli media, è ancora la TV al primo posto con quasi 5 ore giornaliere, però la radio, e ci fa piacere segnalarlo, sta a 2,2 ore al giorno nella, appunto, esposizione di un americano medio. L'esplosione però ha creato, o starebbe creando, un paradosso, perché chi ama usare insieme più fonti di informazione finisce per ottenere risultati cognitivi peggiori in appositi test, cioè quelli che sono dedicati al multitasking, quindi la capacità di gestire più obiettivi. Chi si espone a più fonti mostrerebbe minore capacità di discernere tra le informazioni, di ignorare le informazioni irrilevanti, di organizzare la sua memoria a breve termine. In qualche modo l'aumento molto forte di informazioni a cui ci esponiamo non ci aiuta poi, non migliora la nostra capacità di selezione e di scelta. E allora cambiamo un po' argomento, perché settimana prossima, mercoledì per la precisione, si celebrerà una ricorrenza molto importante. Si tratta della giornata della memoria. Ovviamente tutti i settimanali si occupano in vario modo di questa ricorrenza. È anche difficile trovare una chiave che in qualche modo possa incuriosire, possa smuovere i lettori, gli ascoltatori su questo evento. Ci prova anche Vanity Fair con una bella testimonianza che viene affidata a Franco Perlasca. Franco Perlasca è il figlio di Giorgio Perlasca, e Giorgio Perlasca aderì al fascismo negli anni 20, ma se ne allontanò dopo l'entrata in vigore delle leggi razziali nel 1938. Ricorderete probabilmente il film TV da cui che fu tratto dalla sua storia, Perlasca, un eroe italiano. Si allontanò appunto dal fascismo nel 1938 dopo le leggi razziali, e nel 1945, mentre era a Budapest, riuscì a salvare la vita di 5.200 ebrei ungheresi spacciandosi per un diplomatico spagnolo. C'è anche un volume che è uscito sulla sua vicenda, Giorgio Perlasca, un italiano scomodo. A questo episodio, diciamo, se vogliamo, marginale, minore della tragedia dell'Olocausto, è dedicata appunto la rubrica di Vanity, che così sceglie di ricordare ai suoi lettori la giornata della memoria. Naturalmente anche Il Sole 24 Ore ha in programma una serie di iniziative per il giorno della memoria. Vi segnalo ad esempio che già sul sito del sole24ore.com potete trovare una sezione speciale online dedicata proprio al giorno della memoria, con delle interviste, dei video, delle gallerie fotografiche. E poi per il 27 gennaio, proprio in collaborazione con l'associazione Figli della Shoah, la Fondazione Memoriale della Shoah, il Conservatorio di Musica di Milano, trasmetterà in diretta web sul nostro sito, sul sito del Sole 24 Ore, la testimonianza di Liliana Segre, che è sopravvissuta ad Auschwitz, e il concerto degli allievi del conservatorio. Il tutto sarà sul sito del Sole 24 Ore a partire dalle 10:30 di mercoledì. Ma torniamo alla vicenda di Perlasca. Perlasca, Franco Perlasca, il figlio appunto di Giorgio Perlasca, dice: la miglior maniera per ricordare la Shoah, l'olocausto, ma anche ogni altro genocidio o pulizia etnica, è ricordare i giusti, quelle persone cioè che seppero dire no, seppero porsi anche a rischio della propria vita, non rimanendo indifferenti dinanzi al male che cresceva. Da qui la rievocazione della vicenda paterna e la spiegazione anche della differenza tra l'eroe e il giusto, che ho trovato molto, molto affascinante. Dice Perlasca: esistono sempre al mondo, dice citando un racconto della tradizione ebraica, esistono sempre al mondo 36 giusti. Nessuno sa chi sono, nemmeno loro sanno di essere giusti, ma quando il male sembra prevalere escono allo scoperto, si prendono i destini del mondo sulle spalle, e questo è uno dei motivi per i quali Dio non distrugge il mondo. Questo è il racconto della tradizione ebraica, e uno dei giusti, scrive il figlio appunto di Giorgio Perlasca, era proprio Perlasca, che è certo un eroe, ma è un eroe che ha la convinzione, come scrive Franco Perlasca, di aver fatto solo il proprio dovere di uomo, nulla di più e nulla di meno. Allora, in conclusione di questa nostra prima puntata domenicale di Magazine 24, una curiosità che ho trovato su Storica: qual è stato l'ultimo papa a portare la barba? Sì, perché se ci fate caso, nelle epoche moderne, in anni recenti, non si ricordano papi con la barba. E in effetti l'ultimo papa che ha portato la barba fu Innocenzo XII, al secolo Antonio Pignatelli di Spinazzola, eletto nel 1691, morto nel 1700. In realtà, però, avverte Storica, la disciplina della barba nelle gerarchie ecclesiastiche fu a lungo dibattuta. E addirittura il sinodo di Tolosa organizzò la scomunica per quegli ecclesiastici che non si radevano, e così via. Poi, per diversi secoli, con un'accettazione prima parziale e poi più ampia, e fino invece a una completa negazione del portare la barba. San Carlo Borromeo nel 1576 emanò una lettera pastorale che vietava a chiunque nella gerarchia ecclesiastica milanese di portare un simile ornamento, e poi solo con il successore di Innocenzo XII, Clemente IX, iniziò l'epoca dei papi sbarbati. Pietro La Corte, che ci ha accompagnato anche questa mattina in regia, porta la barba, quindi difficilmente in questo momento, in questa epoca storica, potrebbe candidarsi a papa, a meno di appunto che non rinunci al suo ornamento, al onor del mento, come qualche volta si dice. Io lo ringrazio, naturalmente ringrazio anche Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro, che mi hanno aiutato a preparare questa trasmissione. Grazie, e vi do appuntamento a sabato prossimo.